Occhio alle preposizioni. A. Ascolta e controlla. 1. Durante un'intervista, una signora racconta che cosa accadde la sera del 10 settembre di 30 anni fa. Lei e suo marito erano in veranda quando videro delle luci in lontananza. Il marito decise di andare a vedere da vicino perché pensò ad un incendio. Fu allora che la signora vide suo marito per l'ultima volta. Dopo qualche giorno, alcuni scienziati scoprirono dei segni nei campi. Ora la signora vive da sola perché la gente non va più ad abitare in quella zona. 2. Gli zii Lia e Gustavo vennero all'aeroporto per aspettarci e finalmente ci abbracciammo dopo più di 15 anni. Uscimmo dall'aeroporto e salimmo in macchina e partimmo verso il centro della città. Gli zii ci raccontarono molte cose della famiglia e della città e così subito ci sembrò di essere lì da sempre. Dopo che fummo arrivati all'ingresso della casa degli zii, cominciò a grandinare forte. La zia corse dentro e nella fretta io persi gli occhiali. Rimanemmo chiusi in casa finché non smise di grandinare.